24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Eccoci, sono le 6:34 minuti e buongiorno anche oggi. Buongiorno, siamo qua con Miriam Lucchetti in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè. Tacchini e passerotti, e ci siamo tutti e siamo pronti ad aprire il nostro bar con Nicole Minetti che offre il caffè. Il caffè volentieri a tutti quanti. Caffè oggi offerto come sempre, e li ringraziamo così perché li sbrandiamo almeno questo piccolo gesto. Mario Adinolfi, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno Mario, buongiorno, dico buongiorno. Subito che ho una notizia per te, tra poco la dice libero in prima pagina, la teniamo però per più avanti, eh. E poi saluto Vincino, buongiorno. Buongiorno, ben ritrovato, direttore con Vauro del Male. Eccoci qua. Allora, Vincino ha vinto, adesso ci crede che Renzi ha perso, perché Renzi ha perso settimana scorsa. Sì, Renzi ha perso, però uno, Vendola ha vinto, pare che abbia stravinto, come Vendola diceva giustamente, io perdo i sondaggi, perdo le elezioni, ma vinco sempre dopo tutto. Vendola ha stravinto, praticamente è lui lo stravincitore. Lo stravincitore. E poi quest'altra cosa, vabbè, insomma... E poi chi ha vinto? D'Alema ha vinto. D'Alema. Sì, vabbè, poi, cioè, in realtà la foto è questa: c'è un bullo che picchia una persona tenuta da cinque, che sono tutti i cinque regolamenti, e poi questo qua vince, stravince, e la gente guarda questa storia qua e dice: ma. Insomma, è andata male, Vincino. Preferiva Renzi. È così. Ha vinto. Ma sempre il bullo ha vinto con quello tenuto, eh. Ah, con quello tenuto, sì. Che sono i regolamenti, no? Sti regolamenti. Ma pure cosa? Non hanno fatto votare. Verdone, glielo faccio. Verdone ha firmato 2000 competizioni, glielo, per tutto. Glielo faccio sentire subito. Allora, glielo faccio sentire subito. Verdone. Ho sentito un po' di nomenclatura in queste cose qua, capito? Ho sentito un po' un iperburocraticismo in qualche modo. Ho come sentito un po' la sensazione di lasciamo le cose un po' come stanno. Poi, vabbè, io questo ho avvertito, ma non è che sono stato l'unico ad averlo avvertito. La nomenclatura ha sentito Verdone. Mario Adinolfi, tu che eri renziano. Un po' è vero. Un po' di nomenclatura c'era, però insomma. Vabbè, ma il partito stava tutto compatto con Bersani, ma non c'è niente di male, voglio dire. Quindi. Speravamo in una cosa un po' diversa. Certo, io nel gruppo parlamentare mi sembra ero insieme a 6-7 altri giapponesi che facevano una battaglia eroica contro 200, insomma. I 6-7 giapponesi per Renzi contro, bella, esatto, questa immagine. Contro... Eravamo così, lì nella giungla a fare la battaglia con i coltellini. Tutti, diciamo, bersagnani, ma non cambierà mai niente, no? Ma sentite, allora voglio farvi sentire Massimo D'Alema. Massimo D'Alema è uno dei trionfatori di queste primarie, dai, parliamoci chiaro. No, Massimo D'Alema, che ce l'ha anche, è intervenuto da Mentana e dice la colpa di tutto, ci avevamo tutti media contro, sentite D'Alema. Renzi ha avuto un grande successo, se non fosse stato costruito da uno schieramento pressoché unanime di tutti i media contro di noi, come sempre, diciamo, l'idea che Renzi poteva vincere, che era un'idea infondata, dati i risultati del primo turno, forse il 40% di Renzi oggi farebbe anche una figura migliore. Avete sentito D'Alema, tutti contro di noi, e poi ancora gliel'ha detto a Mentana, a Ferrara, sentite. Ma voglio dire, non ce l'ho con Renzi in questo caso, ma con il danno che gli avete fatto voi. Voi. Un D'Alema d'assalto, Vincino, qui c'è un D'Alema, è colpa nostra, è colpa. Tipo Scaiola D'Alema, è quello là che, siccome ormai frequenta i servizi segreti, lui conosce tutto e sa tutto, no? Perché Scaiola, spieghiamolo, Scaiola pare che abbia detto ai colleghi liguri del Popolo della Libertà: io sono stato presidente del Copasir, ricordate che io so tutto di voi. So tutto come D'Alema. Adinolfi, come ci si sveglia da renziano nel Partito Democratico il giorno dopo? Ma insomma, tutto sommato, orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Cioè, abbiamo fatto una cosa incredibile, e che dica D'Alema, che forse non leggeva Repubblica, che era il principale quotidiano di riferimento del centro-sinistra, dove tutti i giorni, con la ciliegina domenicale dell'editoriale di Scalfari, che ci dava tutti i giorni addosso in maniera micidiale, insomma, noi non avevamo per niente uno schieramento di media compatti. Avevamo tanta gente che ha creduto nella capacità di rinnovamento di un ragazzo di 37 anni e contro tutta la, diciamo, la massima del partito, contro tutti i segretari provinciali, regionali, contro tutti i parlamentari, si è preso un 40% di consensi, insomma, quindi se l'è preso perché è stato bravo. Sì, ma adesso che deve fare? Perché questo è, adesso pare che sia in modalità off, come ha detto Renzi, no? Cioè quando uno sta acceso ma col cellulare un po' in stand-by, modalità in attesa, capire che Bersani lo chiami. Che deve fare Renzi se rimane nel partito? Renzi ha stravinto. Deve solo stare tranquillo. Ma tranquillo di che, Vincino? Se rimane inglobato nelle sabbie mobili del partito adesso, se non fa qualcosa? No. Guardi, lui deve rimanere dove? Ha stravinto, poco tempo ha stravinto, questi qua crolleranno tra pochissimo. In che senso? Non ha problemi il Renzi. Ma in che senso crolleranno tra pochissimo? Perché saranno? Allora, il governo Bersani Vendola Casini? Ma te lo immagini che cosa succede? Quanti mesi dura il governo Vendola Casini Bersani? Con tutti questi qua, con tutti i 380 parlamentari che hanno votato Bersani, che vogliono tutti essere rieletti. Che casino che hanno là dentro di quei dare, prendere e cosare, no? L'ha vinto Rosi Bindi, ha detto sono resistita a 20 anni di Berlusconi, resisterò certo a un anno di Renzi. Mi ricandido, così ha detto Rosi Bindi. Mi ricandido. Fioroni, Bindi. Da Adinolfi, non so, stiamo dipingendo un quadro per cui... Però no, lo vorrei chiedere a Adinolfi, che deve fare Renzi? Cioè, perché si è ipotizzato di tutto, anche che uscisse dal partito, che volesse capitalizzare questo milione rotti di voti. Allora, Renzi intanto deve fare un momento di relax e tranquillità, perché ha veramente dato tantissimo e non avete idea, sono schiantato io che non ero il candidato. Sono stanchissimo, lui veramente dopo aver fatto 108 tappe in tutta Italia, dopo aver macinato 20.000 chilometri in 2 mesi, insomma, è arrivato a lì. In più fa il sindaco di Firenze, che non è una cosa proprio secondaria, insomma, per cui deve fare bene il sindaco di Firenze. E poi? Non voglio eludere la domanda, cioè è chiaro, cosa si fa con questo 40% di consenso? Si mettono sul punto più alto, diciamo, io ho detto ieri, sull'avanguardia del centro-sinistra. Cioè noi siamo lì posizionati, sempre i famosi giapponesi, però adesso abbiamo dietro il 40% del centro-sinistra. Volete diventare, che ne so, finlandesi almeno, no? Vogliamo essere decisivi, e francamente lo saremo, insomma, perché... Non credo che il centro-sinistra possa fare a meno di questa. E però vedi che lì arriviamo sempre alla parte poi della vecchia politica. Cioè chiedete che nel prossimo Parlamento non essere in 6 giapponesi. Ecco. Ma noi non chiediamo nulla. Allora questo deve essere chiaro. Noi non facciamo la correntina e non chiediamo nulla. Credo sia un problema di Bersani. Cioè Bersani adesso ha il problema di dover fare la sintesi per rappresentare anche il 40% che abbiamo rappresentato noi. Perché se lui pensa che la prima faccia che manda in televisione il minuto dopo che ha vinto le primarie sono Bindi e D'Alema per fare quelle sceneggiate, secondo me fa un errore, ecco, insomma. Sarei molto attento a avere questo tipo di No, ma infatti Vincino ci crede che non sarà un mercanteggiare, Vincino, a dire adesso mi dovete mettere 50, 60, 70 parlamentari. Renzi dice no, io non farò mai questo tipo di politica. Infatti questa è la sua forza, però deve riguadagnarsi tutto il Sud, perché Renzi il Sud l'ha sbagliato completamente. Io c'ho un esempio solo. Sì. Arriva a Palermo e dove va? Va alla Camera del Lavoro. Una saletta con 40 persone a Palermo. Doveva andare al quartiere Zen, doveva andare nel centro, a Piazza Politica, ma doveva andare da tutte le parti, meno che alla Camera del Lavoro. Del lavoro. Però è andato anche a casa. A Palermo così avrà fatto dalle altre parti nel Sud. Questo è stato. Ha sbagliato nel Sud, perché forse nel Sud aveva piccoli notabili locali che erano con lui. E questo è un errore gravissimo. Infatti, ha voluto rimediare alla fine andando a casa di Peppino Impastato, ma ormai era tardi, no? Forse era tardi. È andato anche lì, però. Vi voglio far sentire quest'altra di D'Alema, poi basta, poi con D'Alema abbiamo sul budino, il budino. Non credo che l'attuale centrosinistra sia semplicemente la ripetizione del passato. Poi se lo sarà lo vedremo, come dire, la prova del budino è nel mangiarlo, adesso noi dobbiamo cercare di renderlo appetibile. Vincino, come sarà? Abbiamo mangiato di budini là noi. Come sarà sto budino? Tre governi D'Alema con i vari sottosegretari fascisti, no? Chi sono? Ma chi sono? Uno vicino, uno di vicino Roma, un RAS di vicino a Roma, guarda, ha avuto un sottosegretario fascista D'Alema, no? Ma come un sottosegretario fascista? Quelli ora il nome non lo so, guarda, attenzione, Adinolfi suggerisce Mister Ville. Perfetto, brava Adinolfi, vedi, lui è grande e grosso e sa tutto, c'ha una memoria. Vabbè, quindi il budino non va bene, insomma, non è pace. Sono di destra, Renzi ha perso, una elettrice in meno per il PD. Italiani, con Bersani non cambierà mai niente, è quello che era con Prodi quando ci hanno svenduto all'euro. Aprire gli occhi, grazie. Mira, sto ascoltando quanto prende l'ambasciatore, senti, mi si sta rivoltando lo stomaco. Ciao, volevo rispondere alla signora che chiedeva se l'Italia fosse tutto dovuto in quanto a permessi, ferie, eccetera, eccetera. Cara signora, non è tutto dovuto, infatti io che sono insegnante, sono a tempo determinato, il mio contratto scade il 30 giugno e ogni mese maturo delle ferie, come tutti, a me che sono insegnante, ripeto, il prossimo anno le ferie non godute non mi verranno pagate. Buongiorno, ma Renzi si deve presentare come liberale, che c'è bisogno di liberali, non dei preti e di tutta quella marmaglia lì. Per caso il signor Gabella che vuole tagliare sul servizio sanitario è lo stesso che permette l'acquisto dei super bombardieri? L'ospite della Sant'Anché vorrebbe andare a San Vittore. Sicuramente a San Vittore ci sarebbe qualche ospite che vorrebbe andare dalla Sant'Anché. Perché non fanno due persone felici? Allora, siamo con Mario Adinolfi, deputato del Partito Democratico, e con Vincino, direttore insieme a Vauro del Male. A proposito di Sallusti, oggi la novità è su Repubblica. Hanno intervistato il giudice diffamato Cocilovo, poche dichiarazioni per la verità, ma il giudice Cocilovo ha detto: sono pronto a perdonare Sallusti, perché probabilmente verrà anche chiamato da Napolitano, che ha preso in mano il dossier del direttore del giornale. Adinolfi, come finirà questa vicenda? Perché giovedì c'è il processo per direttissima per l'evasione da parte di Sallusti, rischia a questo punto? Aspetterei il processo di giovedì, perché sì, bisogna eventualmente provvedere, secondo me, con una grazia. Io scrissi appena Sallusti ebbe la sentenza su Twitter, che ci sarebbe stato necessitato un intervento di Napolitano, e devo dire il Quirinale mi rispose via Twitter. È vero, Pasquale Cascella ti ha risposto. Dicendo già allora che seguivano la vicenda, quindi io credo che se la sensibilità del Capo dello Stato è attiva da allora, un provvedimento di clemenza la grazia, alle la porte. Io spero finirà così, con la grazia. Vincino, non è la migliore soluzione possibile, lo so, Vincino. Però io la grazia lo nomino senatore a vita, vabbè, insomma, una delle due cose. La grazia al senatore a vita, no? Sì, è quello che può fare il presidente, come dire, no, di danni ne ha fatti abbastanza. E poi Sallusti premier a questo punto, perché il passo è breve. Al centro-destra ne manca uno. Da senatore a vita a premier. Vincino, come lo vede un governo Sallusti? Un governo Sallusti, come dire, dai, più o meno come questo qua di Monti, non è che adesso un disastro come, un disastro peggio di questo di Monti sarà difficile, però noi ci proviamo sempre. Eccolo lì. Allora io vi voglio far ascoltare Emilio Fede, perché Emilio Fede ieri al processo Rubi la domanda di, credo, Ghedini lo stesse interrogando, no? Interrogare il testo. Sentite la domanda sulle parti intime e la risposta di Fede, sentite. Lei o l'onorevole Berlusconi, durante queste cene o nel dopocena, siete stati toccati dalle ragazze nelle parti intime? Se uno mi indica precisamente che cosa si intende. La domanda è molto specifica, più specifica di così. Ci basta un sì o un no? Va bene, no. Ecco, Vincino non aveva ben capito cosa fossero le parti intime. Lui pensava il TG4, le sue parti intime. No, no, no, se uno mi specifica bene, voleva proprio sapere. Poi sentiamo ancora su Ruby. Ruby puzzava, questo ha detto. Ruby, cattivo odore aveva Ruby. L'ho vista ballare la danza del ventre vestitissima, devo dire in maniera non gradevole, perché aveva la gomma americana e faceva le bollicine. Io l'ho trovata brutta, non mi sento di dire che ho detto di una ragazza che aveva cattivo odore. Ecco qua, vabbè, affido a voi, sono testimonianze ad Inolfi, sono tutte testimonianze rilasciate in un tribunale della Repubblica Italiana e quindi... Ha tutto dentro lo sfacelo dell'impero, diciamo così. Lo sfacelo della fotografia, mi sembra quella della dissoluzione a cui insomma. No, ma le parti intime, se uno mi specifica bene, era fantastico. Pure Ghedini era stato chiarissimo, più chiaro di così. Ha toccato le parti. Se uno mi specifica bene, che vuol dire? Ghedini a quel punto ha detto: vabbè, non so più che faccio. Però devo chiudere con la notizia del giorno, l'avevo promessa a Valeria Dinolfi, eccola qua, in prima pagina di Libero. Arrivano dall'anno prossimo 50.000 posti di lavoro per le sale da poker. No, Mario Dinolfi è un grandissimo giocatore di poker. Entro gennaio il bando per assegnare 1.000 licenze per le sale da poker. Ma dai, ma Dinolfi, addirittura... Ma io ho sempre pensato che la legalizzazione del poker live avrebbe portato... posti di lavoro, se lo fanno non è un male, il poker sportivo non è niente di clamorosamente pericoloso, molto più pericoloso delle macchinette. Ma ho letto ma ho letto addirittura che c'è gente a livello estremo che si fa la chirurgia plastica per evitare che durante le partite di poker, non so, uno faccia delle espressioni facciali. Famosa poker face, la canzone, poker, insomma, a poker face, la nota, la faccia da poker, ma veramente estremo. C'è anche chi si vestiva da gatto, faceva le sembianze da gatto, anche fatto la ma quanto hai vinto poi? Ultimamente avevi vinto 8.000 euro, se non sbaglio, in un torneo. Ormai non riesco più a giocare, perché purtroppo è un po' come fare uno sport vero, se ti alleni e giochi regolarmente fai buoni risultati, altrimenti è meglio lasciar perdere questa fase in cui sono parlamentare, non ce la faccio. Durante le vacanze estive ho fatto un torneo e ho visto che ancora so tenere le carte in mano. Hai visto Vincino qua c'è 30 euro l'altro ieri. Quanto? 30 euro. Ma 30 euro, ma Dinolfi è un professionista. Ma di più, 100 euro Renzi mi è costato. 100, perché 100 euro? Ah, dato ho scommesso con Vauro 100 euro. Ah, Vauro ha vinto. Lo sconto a 20 euro, però dopo aver sentito il discorso di Renzi ho detto no, assurdo, devo pagare tutto. Ma Vauro, tutto. Vauro è bersaniano? Sì. Anti-renziano addirittura, quindi lui sarà vendoliano più che altro. No, quelli insomma è anche un po' anti-vendoliano, anti-bersaniano, ma è molto anti-renziano. Molto anti-renziano, va bene. Ci fermiamo qui, vi ringrazio. Mario Dinolfi, che ricordo su Radio Yes a Roma dalle 8, credo, sarà in onda, così come ringrazio Vincino, direttore del Male, insieme a Vauro, ma ha perso la scommessa. Ha vinto Bersani, ha perso Renzi e quindi ha vinto Vauro, 100 euro credo, o 30, quanti erano? Volete dire la vostra? 02 4652 4492, chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 mattino. 02 4652 4492, e ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. Questo martedì 4 dicembre, intanto i titoli, molti quotidiani aprono sullo spread. Lo spread scende sotto quota 300, così il Sole 24 Ore. Per il Corriere della Sera lo spread dà fiducia all'Italia. Per Repubblica spread sotto 300, Monti brinda. Avvenire, spread sotto quota 300. Il Secolo XIX, spread sotto i 300, ma Monti non basta. Questo per quel che riguarda la finanza. Mentre la politica, il giorno dopo la vittoria di Bersani, e la Stampa titola: Berlusconi vuole sfidare Bersani. Questo è il titolo che parla di una possibile ridiscesa in campo di Berlusconi. L'Unità: Bersani farò il cambiamento. Libero, effetto primario, ecco il nuovo governo. Ci sono le foto di Bersani, D'Alema, Veltroni, Vendola, Anna Finocchiaro. Insomma, come a sottolineare, un PD e una coalizione di vecchi volti della politica. Bersani, Monti e Grillo, ora è partita 3, così titola il Fatto Quotidiano, mentre il giornale Forza Italia c'è. Il Manifesto invece titola in prima pagina Sinistra al centro, mentre Pubblico lancia Luna di miele, un sondaggio del TG della 7, dopo la vittoria di Bersani il centro-sinistra al 42,4%. L'apertura sullo spread anche per il Messaggero, invece lo spread scende ai minimi. Queste alcune delle aperture dei giornali. Voglio però subito aggiornarvi sulla vicenda Sallusti, perché c'è un interessante articolo di Repubblica, è diciamo l'articolo più nuovo che inserisce un elemento di novità in questa vicenda, perché Liana Milella ha intervistato, per la verità più che un'intervista, qualche dichiarazione al giudice, da parte del giudice Luigi Cocilovo, è il protagonista, uno dei protagonisti di questa vicenda, è il giudice che è stato diffamato da questo articolo pubblicato da Dreyfus alias Renato Farina su Libero, quando Sallusti era il direttore di Libero. Sallusti, sono pronto a perdonarlo, il carcere non lo auguro a nessuno. Lo trovate a pagina 17, si parla della grazia che Napolitano potrebbe concedere a Sallusti, appesa a molti fili. Uno conduce ovviamente al direttore del giornale e uno conduce però a Luigi Cocilovo, Torino, la vittima della diffamazione, protagonista meno visibile dell'intera vicenda. Lui dice pochissimo, non ha parlato quasi per nulla, l'unica intervista che avrei fatto per me era solo uno scambio di idee. Mi sa che si riferisce a quei malandrini della Zanzara, no? Di Giuseppe Crociani, che l'ha chiamato una volta in diretta. Al telefono, scrive Liana Milella, la sua cordialità è apparente, in realtà un istrice sarebbe più avvicinabile. Lei deve capire, dice il magistrato, io potrei essere sentito, non posso anticipare nulla. Alla domanda però, lei perdonerebbe Sallusti? Attimo di silenzio. E poi risponde così: ho sempre pensato che legare la grazia al perdono sia del tutto anacronistico. La grazia si concede a chi se la merita. La persona offesa può anche non perdonare mai. Il suo è un no? Se dovessi essere consultato, scriverò poche righe dicendo che sì, il perdono glielo posso anche dare, ma perché io, col lavoro che faccio, questo carcere che non rieduca, costringe al sovraffollamento, alla detenzione disumana, non lo vorrei per nessuno. Poi il giudice Cocilovo qui fa una pausa e dice: però questo lei non deve scriverlo, io adesso non lo posso dire, lo dirò quando me lo chiederanno ufficialmente. Eh sì, già, ma come si fa a non scrivere che non esiste un ostacolo Cocilovo sulla strada della grazia per Sallusti? Così Liana Milella, che dunque lo scrive. E insomma, Luigi Cocilovo, il giudice diffamato, sono pronto a perdonarlo. Questo sul vicenda Sallusti, che oggi continua. Sul giornale il direttore scrive al giudice: perché voglio andare in cella, depositata una nuova richiesta di Sallusti, non cerco alcun privilegio, scrivono Luca Fazzo e Enrico Lagattolla. Dunque il direttore del giornale insiste: chiedo la revoca dei domiciliari, non avendo mai preteso benefici o misure alternative alla detenzione in cella. Il mio caso è stato additato come frutto di un privilegio rispetto alla condizione di altri condannati al carcere e io non voglio privilegi. Tra l'altro giovedì ci sarà l'udienza per l'evasione dai domiciliari, quando è stato accompagnato ai domiciliari. Le previsioni dicono che nel frattempo interverrà la grazia del presidente Napolitano. Napolitano pensa alla grazia, ma aspetta il processo, forse attenderà il processo giovedì e poi deciderà la grazia. Vabbè, in un altro stato di grazia, ben altro stato di grazia, e qui tutti i gossipari del mondo riunitevi, perché ci sono articoli e articoli e articoli. Nel Regno Unito non si parla d'altro, avete già capito. Il quotidiano nazionale incredibilmente già titola in prima pagina Il Giorno, io l'edizione del Nord, aspettano un figlio, come se non ci fosse notizia più importante oggi da mettere in prima pagina. Sono Kate e William, sono gli eredi d'Inghilterra e dunque Kate della Gran Bretagna, anzi io non sono avvezza a queste cose monarchiche, non lo so, dirò una serie di castronerie, perdonatemi, ma Kate aspetta un principino o una principina, non si sa, ed è già un re del gossip, così titola il giornale, ma guardate ovunque, Kate è incinta, arriva all'erede d'Inghilterra, ha le nausee, è stata ricoverata in ospedale, una pagina di Repubblica, bebè in arrivo per William e Kate, la duchessa ricoverata in ospedale, e già i bookmakers giocano sui nomi, Frances, se fosse una bambina, ma anche dicono Diana, ah Diana, se fosse ovviamente una bambina, anche Diana è bello gettonato, come lo chiameranno? Io non ci ho dormito la notte. Londra, c'è l'erede al trono, Kate aspetta un bambino, anche sul Corriere della Sera, un'intera pagina, anzi no, mezza pagina, no, quasi tre quarti di pagina, la duchessa ricoverata in ospedale per le nausee. In Gran Bretagna, tutti incollati alla TV, Twitter e Facebook impazziti, giornali online presi d'assalto, per dimenticare la crisi economica. Eccolo qui, se volete c'è anche tutta la linea di successione. Mi sono perso e mi è venuto un mal di testa alla quarta faccina, sono arrivato al Carlo, principe di Galles, fin lì ci arrivo anch'io, ma poi basta, mi sono perso con tutte la ragnatela di parentele, ma ho capito che una cosa, che sia che sarà maschio, sia che sarà femmina, sarà l'erede al trono, perché sia che sia maschio sia che sia femmina va bene così, insomma hanno detto che va bene tutto, maschio o femmina, purché ci sia un erede, così in Gran Bretagna. Riprendiamo dalla notizia con cui aprono molti, vale a dire lo spread, allora questo famigerato spread con il quale siamo abituati a fare i conti da qualche anno. Lo spread è tornato sotto 300 punti, non capitava da tanto tempo, ha chiuso a 292, ha toccato un minimo a 292 per la verità e poi ha chiuso a 303 ieri, però ha toccato questo minimo scendendo a 292 sotto i 300 e tra l'altro Mario Monti, come racconta Moria Longo nell'articolo che trovate sul Sole 24 Ore a pagina 3, dice il mio sogno è arrivare a 287 punti base. Molti si sono chiesti ma perché questo numero preciso, ma 287 punti base non è tabù, ma è una pista che si può raggiungere, è un livello che si può raggiungere. E perché questa cifra? Beh, Monti l'ha detto, ve lo spiegherò perché. Perché è esattamente la metà di 574 punti spread, che è esattamente la cifra di quando arrivammo al governo. Insomma, Mario Monti che vuole passare alla storia come il premier che ha dimezzato lo spread. Lo spread torna sotto quota 300 punti, leggete i dettagli di appunto Moria Longo a pagina 3. Raccontano anche le testimonianze che arrivano dalle sale operative delle banche, tutte uguali, abbiamo visto fondi sovrani arabi comprare titoli di Stato italiani in questi giorni, alcune banche tedesche hanno acquistato, il fondo sovrano della Cina ha rilevato circa mezzo miliardo di euro di BTP, insomma pare che l'Italia, almeno in questo periodo, almeno stando alle testimonianze che arrivano, come scrive Longo, dalle sale operative delle banche, stia tornando a essere spendibile. Monti, il mio obiettivo è 287, appunto 287, perché è la metà dei 574 punti con cui abbiamo iniziato il nostro percorso in questa discesa dolce e graduale, nella quale gioca anche un buon rapporto con la Francia, certamente. Infatti ieri Monti era in Francia per ribadire l'importanza strategica della TAV, del treno ad alta velocità, che credo entro il 2026 verrà realizzato. Allora, in Italia, però, in Italia c'è questo pessimismo per quello che è l'ingorgone ormai parlamentare che si sta creando. C'è la legge elettorale, siamo arrivati alla 96esima settimana decisiva. C'è il presidente della Commissione Affari Costituzionali, onorevole Carlo Vizzini, che ha detto: io non mi occupo certamente di province se prima non chiudiamo la questione sulla riforma elettorale. ma sulla riforma, sulla riforma elettorale pare che non ci sia se non qualche intesa in commissione, ma non si arriverà a nulla, anche perché retroscena di retroscena, lo so, vi sto annoiando da più di 30 secondi con la legge elettorale pare ostaggio del Cavaliere, così almeno rassicura e ne è certo Ugo Magri sulla Stampa, pagina 6, un Berlusconi che è colui che più di altri si mette di traverso sulle modifiche della legge elettorale e vuole tenersi questo porcellum, come dire, meglio di altre riforme. Riforma elettorale ostaggio del Cavaliere, scrive Ugo Magri appunto sulla Stampa, pagina 6, nel senso che lui sta valutando di far cadere il governo entro pochi giorni se non gli daranno l'election day che pretende per il 10 febbraio. A quel punto non ci sarebbe più nemmeno il tempo di approvare alla Camera la legge ammazza porcellum su cui l'Aula del Senato inizierà a votare domattina. Quale che sia l'esito delle votazioni, la riforma verrebbe travolta dalla fine della legislatura. Dunque, secondo il retroscena della politica, domattina finalmente si discute su una possibile intesa alla 96esima settimana decisiva della riforma elettorale. Ma nel frattempo Silvio Berlusconi ha in mente un altro piano, che è questo: staccare la spina per votare a febbraio. Anche il Corriere della Sera è abbastanza certo su questa cosa, eh? Paola Di Caro, pagina 15, staccare la spina per votare a febbraio è l'ultima tentazione di Berlusconi. Ormai è un groviglio inestricabile, inizia così l'articolo di Paola Di Caro, che lega ridiscesa in campo di Berlusconi, legge elettorale, crisi di governo che potrebbe aprire il PDL se non verrà concesso l'election day il 10 febbraio, perché questa è l'unica e ultima forte, convinta pretesa di Berlusconi. O ci danno l'election day a febbraio o il governo cade ora. E in serata c'è stato questo incontro ieri, insomma, riunioni di partito, non si capisce ancora se scende in campo, se non scende in campo. Intanto quello che è certo è questo: non vuole riforme sulla legge elettorale, vuole l'election day, e se non c'è questo, crisi di governo. L'incertezza a cui si lega tutta la vicenda di Berlusconi è anche legata all'incertezza sul suo destino. Magari ne chiederemo qualcosa conto a Flavio Brigatore alle 8:15, visto che lo frequenta molto ultimamente. A pagina 6 di Libero, Salvatore Dama scrive che è avvenuta anche addirittura questo colloquio tra Alfano e Berlusconi. Alfano, con un'attesa snervante, scrive Salvatore Dama, che non finisce mai, con i dirigenti del PDL che gli hanno chiesto a Silvio Berlusconi di poter convocare un ufficio di presidenza per affrontare tutte le tematiche sul tappeto, le primarie, la legge elettorale, l'election day, la fiducia al governo. Alfano gli avrebbe detto anche: mercoledì, cioè domani, convoca l'ufficio di presidenza per parlare di queste cose. La risposta di Berlusconi è stata: non posso, domani devo andare a presentare il libro di Bruno Vespa. Sono da Vespa e il Cavaliere annulla il vertice del PDL. Pagina 6 di Libero, dopo la vittoria di Bersani, più vicina alla ricandidatura di Berlusconi, che però dice: non discuto di queste cose domani perché sono da Vespa. Retroscena, ma qui siamo in retroscena, secondo l'Unità, addirittura da Bruno Vespa, e quindi in un'occasione pubblica, secondo questi rumors, Berlusconi potrebbe annunciare la discesa in campo, quindi dire qualcosa di definitivo sul suo futuro imminente, tanto ormai si è capito che dall'altra parte ha vinto Bersani, lui attendeva questo ballottaggio Bersani-Renzi, e pare che possa anche dirlo in diretta o comunque in un'occasione pubblica domani alla presentazione del libro di Bruno Vespa, che farà tra qualche giorno o tra qualche mese. E in questo marasma cosa sta succedendo? L'ennesimo tentativo di assalto al decreto di riordino delle province. Fate attenzione, cari ascoltatori, come racconta bene il Sole 24 Ore, pagina 10, assalto al decreto sulle province. C'è il decreto per il riordino, e come si fa l'assalto? Presentando una pioggia di emendamenti. Sono arrivati 700 emendamenti al decreto di riordino delle province, come raccontano Eugenio Bruno e Marco Mobili. 300 di questi, 300, sono arrivati da un solo senatore, il senatore Claudio Fazzone. Ne ha presentati circa 300 sulla fusione Frosinone-Latina. Mannaggia, 300 emendamenti per contestare, immagino, la fusione Frosinone-Latina. E saranno previste tutte le possibilità, proprio quasi verrebbe a dire a 360 gradi in 300 emendamenti presentati dal senatore Claudio Fazzone, poi altre 160 dal resto del gruppo, poi altri di qua, altri, insomma si arriva a 700 emendamenti, poi uno chiede perché si ricorre alla fiducia da parte del governo. Dalla parte invece del centro-sinistra troverete ancora tanti articoli che analizzano il giorno dopo la vittoria di Pierluigi Bersani, che è volato a Tripoli per la prima delle sue missioni internazionali, ne farà parecchie, pare, raccontava anche ieri il Corriere della Sera in questi mesi. Bersani, l'invito che ha fatto il giorno dopo la vittoria è stato a Renzi, quello di far parte dello squadrone, vale a dire Renzi è una risorsa. Bersani comunque ha detto che ci vorranno tanti volti nuovi con qualche presidio di esperienza, ha ricevuto le telefonate più gradite di Carlo Azeglio Ciampi e anche di Mario Monti, che è stato il primo a chiamarlo con parole molto affettuose dopo la sua vittoria nei confronti di Matteo Renzi. Prima di andare a Tripoli però intervista canonica da Bruno Vespa. Nessuno ha la bacchetta magica, dice, ma Bersani vuole lasciare un segno abbassando l'impressionante asticella della disoccupazione giovanile, per esempio. Sulla patrimoniale non sarà generica, ma si tradurrà in un minor peso dell'IMU per la prima casa, in una tassazione maggiore per i grandi patrimoni immobiliari. Quanto al fisco, Bersani, non sarò mai un Robespierre delle tasse, ma mi batterò per far emergere il nero e riportare un po' di uguaglianza tra i contribuenti. Insomma, ha parlato del programma, ma ha parlato anche dell'invito a Matteo Renzi. Il sindaco invece rimane per il momento alla finestra dicendo non mi interessano inciuci o correntine, così il sindaco di Firenze, sempre sul Corriere della Sera. Ma che faranno invece su questo rinnovamento, presunto rinnovamento, ci sarà? Su Repubblica, Giovanna Casadio a pagina 4 racconta che cosa faranno i vari Bindi, D'Alema, Fioroni. Cosa faranno? Molleranno? Non molleranno? Secondo Repubblica, la vecchia guardia rialza la testa. Bindi, io mi candido. Fioroni, io non mollo. Questo è il titolo, Con, per la verità, è Bersani stesso che frena, forse... l'impatto del rinnovamento o rottamazione di Matteo Renzi sicuramente ha fatto anche cambiare idea magari negli ultimi tempi a Pierluigi Bersani. Ebbene, scrive però Giovanna Casadio su Repubblica che nell'euforia della festa per il trionfo di Bersani, Rosi Bindi fuori onda dice a un amico: bischero, mi presento per altre 4 candidature. Finisce ovviamente tutto su Twitter. Bindi non demorde e rassicura: ho resistito a 20 anni di berlusconismo, figuriamoci se non resisto a 1 anno di Renzi. Chiederà la deroga, non ci pensa a farsi da parte. Ovviamente poi deciderà il partito. Sempre nella stessa serata anche Beppe Fioroni, supporter di Bersani, dice: Matteo bravo, ma io non mi faccio da parte, ho fatto il politico part time. Con il tempo diviso tra il mio mestiere di medico e quello di amministratore, sono stato ministro per 18 mesi, ho 100 giorni di Parlamento in più degli altri, che però erano già il governo all'Europarlamento. Insomma, Fioroni fa tutta questa spiegazione per dire: io non mollo certamente. C'è ancora polemica un pochino con le regole per la vicenda di Verdone, che dice non mi hanno fatto votare oggi. L'articolo più interessante è sulla Stampa di Flavia Amabile, che a pagina 11 va a sentire Giulia Urso. Chi è Giulia Urso? Ecco, lei, segretaria del circolo PD di Via dei Giubbonari, che in pratica ha esaminato la domanda di Carlo Verdone e l'ha respinta. Per la verità, dice, ho raccolto tutta la documentazione molto ben dettagliata, i biglietti aerei di Verdone. Poi esiste una delibera, la 26, che permette l'iscrizione nei 2 giorni successivi alla scadenza con valide giustificazioni. Ho chiamato al comitato centrale, ma mi hanno risposto che proprio per la delibera 26 non potevamo accettarlo. E allora ho scritto un SMS a Verdone chiedendogli scusa per la rigidità, ma essendo la prima volta che venivano applicate le regole non si poteva fare eccezione, ci scusavamo di questo. Lei pensava, questa Giulia Urso, che finisse tutto così, e invece Verdone ha scatenato un po' il putiferio il giorno dopo in un'intervista al Secolo XIX, dicendo, no, l'abbiamo sentita anche in audio alle 6.30 sentendo odore, puzza di nomenclatura, come se non volessero cambiare le cose. Sta di fatto che, insomma, Verdone non ha votato. Ce ne faremo una ragione anche di questo. Mentre il Fatto Quotidiano, vi segnalo, torna dopo qualche giorno di silenzio sullo strano lo dicono loro, strano sequestro del ragionier Spinelli. Torna la vicenda del ragioniere di Silvio Berlusconi, Spinelli e quelle 102 telefonate con Berlusconi e Ghedini. Eleonora Lavaggi e Davide Milosa, pagina 7 del Fatto, raccontano che in quelle ore del sequestro ci furono in realtà fitte conversazioni tra ragioniere e personaggi di fiducia del Cavaliere, tutto su utenze intestate a Mediaset, le 102 telefonate tra Spinelli e il duo Ghedini-Berlusconi. E questo, per il Fatto, è dimostrazione di falsità di quando il ragioniere racconta di avere scambiato solo poche parole col presidente la mattina dopo il rapimento. In realtà, secondo le intercettazioni, secondo il monitoraggio dei cellulari, c'è stata una chiamata per esempio di ben 21 minuti, 1280 secondi di colloquio tra il cavaliere e il suo tesoriere, e poi contatti con Traspinelli, con l'onorevole Berlusconi e l'avvocato Ghedini, che sono stati 102, una frequenza dir poco frenetica, spalmata su appena due giorni, dalla mattina del 16 ottobre alla sera del 17, insomma, approfondimenti investigativi su questo. C'è tutto l'elenco dei contatti in due giorni tra Spinelli, appunto, e il duo Ghedini e Berlusconi. Oh, cosa ha combinato Scajola? Per la verità lui dice nulla. I deputati liguri del Popolo della Libertà dice no, ci ha minacciato in maniera bella e buona, tanto che ora scrivono questi deputati della Liguria al capo dello Stato: lo Stato ci difenda da Scajola. Ma perché? Cosa avrebbe detto Scajola? L'articolo lo trovate sul Secolo XIX, Giovanni Mari che ne scrive a pagina 4. Scajola avrebbe minacciato, avrebbe minacciato i suoi colleghi di partito dicendo: mi vergogno di voi che avete cercato di approfittare delle mie vicende giudiziarie. E poi ha aggiunto: io pensare che ero capo del COPASIR, cioè il Comitato di Controllo sui Servizi Segreti, so tutto di voi e dei vostri nei, eppure non ci ho mai giocato. Cosa avrà voluto dire? Tanto che ora questi deputati dicono ci ha minacciato. Ma cosa vuol dire? Ero a capo dei servizi, del Comitato Servizi Segreti, eppure non ho mai utilizzato queste informazioni, so tutto di voi. E sul Fatto Quotidiano in realtà lo stesso Scajola, pagina 7, dice: non ho mai detto una cosa simile, figuriamoci, ma che mi metto a fare i dossier personali, ma non scherziamo, non ho mai fatto questo tipo di minaccia. Insomma, le dichiarazioni a sua insaputa, questo almeno secondo il Secolo XIX di Claudio Scajola. Mi devo fermare qui, c'è l'ultima notizia che riguarda molti italiani e riguarda il tema tanto annoso dei congedi parentali. Ne scrivono tutti i giornali, leggo dal Corriere della Sera pagina 25: potrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri una novità per attuare norme europee sul congedo a ore in ufficio per le mamme e papà a casa per crescere il figlio più tempo, con una sorta di congedo parentale part-time che avrebbe il doppio vantaggio di allungare i tempi per stare di più con i bambini, ma anche di portare a casa più soldi a fine mese. Questa la proposta che potrebbe presto essere possibile in Italia, con il congedo parentale frazionato per ore e non più soltanto per mesi, settimane o giorni. Quindi poter lavorare per esempio metà giornata e stare in congedo l'altra metà, il congedo a ore. Potrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri presto, è un'applicazione di una direttiva europea, come sempre in Europa queste cose già si fanno e noi no, potrebbe presto arrivare anche in Italia, credo che tante mamme e papà potrebbero beneficiarne. Voglio salutare subito il nostro ospite che sarà con noi fino alle 8.30, si tratta di Flavio Briatore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno Alex, buongiorno a tutti. Come va? Bene, tutto bene. Come va? Visto che lei ha detto che è un osservatore un po' estraneo della politica, vorrei fare due chiacchiere anche un po' di politica, perché d'altronde in Italia poco, però, poco. Vabbè, ha visto le primarie, intanto è felice da osservatore esterno, lei certo non è di quella parte politica, è contento di Bersani o voleva Renzi, avrebbe preferito Renzi? Ma io avrei preferito Renzi solo perché si parlava di rinnovamento e Renzi mi sembrava qualcosa di nuovo. E invece Bersani? Però succede sempre così, quando pensi che qualcosa debba succedere, qui in Italia non succede mai. Mm. E invece Bersani come lo vede? Più espressione della vecchia nomenclatura? No, Bersani è un gran professionista, sicuramente sarà bravo, è una persona che da molti anni fa politica, per cui sicuramente un'esperienza importante, però vista la situazione che abbiamo, questa situazione qui ci ha portato la gente con esperienza, tanto vale provare qualche giovane. Era meglio Renzi, insomma. Però adesso invece sono tutti appesi a capire cosa farà Berlusconi. Non mi dica che non lo sa, perché insomma con Berlusconi qualche legame ce l'avete, no? Di amicizia profonda intanto, e poi anche spesso in Kenya, suo ospite di recente. Che fa Berlusconi? Si candida a questo punto? No, guarda, onestamente non lo so, credo che stia valutando, vedendo, ponderando il fatto che non si è ancora espresso, si vede che non è ancora sicuro se si candiderà o no. Ma c'è da dire che viene da capire, ma come fa a ricandidarsi? Cioè avrebbe ancora una presa molto forte Berlusconi sugli elettori italiani? Ma io credo che Berlusconi credo che tra tutti quanti, forse parlo del PDL. Sì. Tra tutti quanti del PDL sicuramente la persona con più presa è sicuramente Berlusconi. Ancora? Ma non c'è, ma non c'è Alfano, anche lì largo ai giovani si potrebbe dire. Sì, però largo ai giovani, ma mi sembra che in questo momento qui i giovani non ci siano, cioè anche Alfano non so, io credo che la gente che vota non mi sembra sia così eccitata per Alfano. Sì, effettivamente non ha il quid, si potrebbe dire. Non lo so se non abbia il quid o il quod. Io credo che ci vuole anche carisma, ci vuole quello che aveva Renzi e quello che in effetti anche Bersani. Bersani, credo che le primarie del PD sono state una grande lezione per tutti quanti, no? Perché hanno rispolverato il PD in un bel modo, hanno fatto una bella cosa, e il PDL, questo fatto qui che si fa, non si fa, domani sì, dopodomani no, credo che stia creando molta confusione. Ma a proposito di questo, ci svegli la verità sul fatto che Berlusconi pare che dica io mi trovo bene in Kenya, ecco, che cosa trova in Kenya che in Italia non ha? Cosa trova Malindi nel suo resort che in Italia non trova più? Ma è un posto speciale, un posto che se uno viene in Kenya sei un po' fuori dalle beghe quotidiane, sei un po' fuori, sei molto lontano da tutto, è un posto dove c'è molta serenità e sei molto protetto, no? È come essere ancora nella pancia della mamma, è un posto dove ti protegge. Io adoro questo posto, dopo anni e anni di girovagare per il mondo ho scelto di fare una base in Kenya perché credo che sia uno dei posti più sereni in assoluto che ho visto. Ma potrebbe addirittura spendere tutta la parte finale della sua vita di Berlusconi? No, non mi sembra. Non mi sembra il tipo. No? Non lo so, io credo che lui abbia ancora molte energie. Prima di venire in Kenya, credo che abbia ancora molte energie da spendere in Italia. Senti, volevo chiedere questo, visto che lo spread è sceso sotto 300, allora Monti sta facendo bene, l'Italia, visto che lei viaggia molto, l'Italia è tornata spendibile all'estero, un nome che si può spendere, visto che comprano gli arabi, comprano i cinesi, è davvero la cura Monti sta facendo bene allora? Ma io credo che sicuramente lo spread, i mercati si sono calmati, questo è assolutamente vero. La nostra immagine all'estero è migliorata, questo è assolutamente vero, però con quali sacrifici? Perché Sì, i qatariani hanno comprato, però dove investono i qatariani? Su quello che io dico da una vita e tutti si attaccano, investono sul lusso e investono sul turismo. Per cui questi sono gli investimenti che la gente fa in Italia. Investe dove c'è un valore aggiunto importante. Per cui il turismo, che dovrebbe essere la prima azienda italiana, e tutto quello che noi abbiamo, che nessun altro ha, che partiamo dai musei, partiamo dal saper fare, dall'italianità, eccetera, eccetera. Quando io dicevo queste cose, tutti che ridono parlano obbligatorio col lusso. Difatti i qatariani, 3 miliardi di investimenti in questa direzione, Costa Smeralda, Sardegna e marchi di lusso. Ma infatti Monti di recente è andato proprio nel suo giro negli Emirati, in Qatar, eccetera, e hanno è stata fatta anche una partnership proprio di investimenti, di possibili investimenti sul lusso, sulla moda, sui settori che tirano in Italia. Però perché dice mi prendono in giro quando dico io? Perché poi dall'altra parte no, quando si parlava di Costa Smeralda si parlava di billionaire, si parlava di lusso, si parlava di valore aggiunto, e questa è l'arma che l'Italia ha. Sicuramente è quello che gli altri non hanno, noi dobbiamo valorizzare, e credo che l'esempio del Qatar dimostra cosa gli investitori stranieri vogliono investire, dove vogliono investire in Italia. Ma allora... Per cui dovremmo essere pronti, per i cinesi dovremmo, noi siamo l'unica nazione europea che non c'è una catena d'alberghi, cioè noi siamo l'Italia con 7.000 chilometri di costa e non c'è una catena alberghiera italiana. Cioè una catena alberghiera con un marchio, un brand che si faccia conoscere in tutto il mondo, diciamo. Sì, ma neanche in Italia non ce l'abbiamo. Cioè come se fosse l'Hilton, noi non ce l'abbiamo. O lo Sheraton. No, non abbiamo l'Hilton, non abbiamo il Four Seasons, non abbiamo il Ritz-Carlton, non abbiamo niente. Cioè mi sembra un po' incredibile, no, che un paese come l'Italia... Avevamo molti anni fa la Ciga, che è sparita. Mi sembra impossibile che in Italia, un paese come l'Italia, non abbia una catena alberghiera importante. Però gli italiani adesso hanno le preoccupazioni soprattutto di non si arriva alla fine del mese, le pensioni, le tasse, l'IMU da pagare. Di recente ho visto addirittura, dopo la sua comparsa da servizio pubblico, un briatore vicino a Landini della Fiom. Ma pare possibile una cosa del genere o che cosa? Io sono convinto che... Ma vedi, il problema è questo, sono convinto che si possano trovare i soldi da dare in più nella busta paga a chi lavora. Come? Perché basterebbe, ma farlo subito, non parlare e dire faremo, farlo subito, basterebbe eliminare parte degli sprechi. Se tu pensi che quando tu paghi un salario, solo il 50% anche meno del salario va in mano al dipendente, il resto va nelle casse dello Stato, e visto come le casse dello Stato gestiscono questi soldi, credo che si potrebbe tranquillamente dare un altro 30-40% in più al dipendente e far dimagrire lo Stato. Cioè eliminando gli sprechi e i risparmi vadano in busta paga. Ma in busta paga come? Cioè aumentando i salari, che ne so? Aumentando i salari sicuramente, diminuendo la pressione fiscale, dando più soldi a chi lavora. Diminuendo la pressione fiscale perché l'azienda paga già, l'azienda ha un dipendente, che l'azienda costa 3.000 euro, in tasca al dipendente vanno 1.500. Gli altri 1.500 io credo che basterebbero 1.500 dalle in busta paga e vedere di trovare, di eliminare e far dimagrire lo Stato, perché tra la spesa, ma non è solo la spesa pubblica, parliamo di ospedali, parliamo nel modo in cui sono gestite le strutture. E perché non le ha fatte queste cose Berlusconi? Non lo so, bisogna, io parlo come Fabio Briatore in questo momento. Credo che si debba fare, ma credo che si debba fare dal prossimo mese, se la gente, se vogliamo dare una mano a tutti quanti, credo che è quello che si debba fare. Però dare i soldi ai partiti, dare i soldi alla politica, finanziare i giornali, cioè facciamo delle cose che, come dici tu, la cosa importante è che la gente arrivi a fine mese e che possa mandare i bambini a scuola, mi sembra il minimo che puoi fare per un paese normale. Però non è un programma politico, cioè Flavio Briatore, ecco anche questa cosa, Berlusconi pensa a una lista con persone molto fidate, imprenditori. Flavio Briatore ha sempre detto io la politica non faccio nulla, ma è davvero definitivo, non è che poi scopriamo una sorpresina, no? Flavio Briatore no, dice no. Quando dico no, è definitivo, però sono interessato, è un paese a cui amo, anche se io non vivo in Italia, però mi sento 100% italiano e vedo la potenzialità che c'è questo paese, enorme, eppure si sentono sempre le stesse cose, si sento sempre dire, c'è un immobilismo. In questo momento noi abbiamo, credo, un 36% di giovani che non hanno lavoro. Sì. Abbiamo il PIL, mi sembra che sia sceso del 2-3%, per cui la cura Monti, benissimo, la repressione, ma adesso bisogna parlare di ripresa, dobbiamo rimotivare la gente, fare ripartire l'economia e dare entusiasmo, perché qui l'Italia in questo momento qui è un paese molto triste. Bersani lo può ridare l'entusiasmo? Che potrebbe essere... Io credo che se qualcuno non ci mette di buono, finalmente capisce che i problemi della gente sono il lavoro e i salari, perché anche chi lavora a 1000 euro al mese, 1200 euro al mese, non è che sia un lavoro questo, o le pensioni a 500 euro al mese. Se noi invece di dare tutti i soldi nelle casse statali, che dovrebbero ritornarci un servizio, se i nostri servizi fossero eccezionali, per cui se tu vai in ospedale sei curato perfettamente, tu vai in ospedale e vedi dalle varie trasmissioni che è come quando compri un divano, poi quando lo vai a ritirare ti dicono no, ma i cuscini sono extra. Per cui i servizi che non vanno. Mettiamo dei manager che sappiano gestire queste cose, che si può gestire in modo molto più efficiente. E cerchiamo di dare in busta paga alla gente più soldi. E appunto, ma Bersani non è l'uomo che può farlo, perché è uno che sul lavoro, sull'importanza di aumentare i salari, ha detto mi voglio riferire a quella classe media, quel ceto medio in difficoltà, non è l'uomo che può prendere in mano questo programma e attuarlo, secondo te? Ma io me lo auguro, però bisogna anche vedere se lo si può fare, no? Perché ci sono delle cose che tu hai la buona volontà, ma non si possono fare. Io credo che un presidente del Consiglio dovrebbe avere, chiunque sia, più poteri, dovrebbe avere la possibilità di fare le leggi, dovrebbe avere la possibilità di licenziare anche dei ministri se non sono all'altezza, però noi dovremmo dare più potere alla gente, perché è inutile che qualcuno sia al comando e poi non possa incidere, non possa agire. Cioè metterlo al comando ma poi agire. Invece è un'Italia incrostata, un'Italia triste la vede Flavio Briatore, un paese che... No, triste, è un'Italia che vedi che da anni e anni e anni noi siamo sempre la nostra... Noi abbiamo l'italianità che... Io ho detto sempre che gli italiani sono i migliori che ci sono, ma qui va da chiunque, dal taxista, al portiere dell'albergo, al ragioniere, al manager... È un popolo di intelligenti. Bisogna dare le motivazioni e bisogna pensare che in Sud, ad esempio, dobbiamo parlare di rivitalizzarlo, dobbiamo investire non in acciaierie, ma investire in turismo, in alberghi. Dobbiamo avere una linea aerea interna che possa portare i turisti nei vari posti. Dobbiamo recuperare i musei, devono essere aperti 24 ore al giorno, cioè dobbiamo fare le robe che fanno tutte. Ma il turismo è uno dei pallini di Flavio Briatore. Io devo salutare, ma un caffè con Marco Travaglio, perché vi twittate delle cose indicibili. La berremo? No, per carità. No, caffè con Marco Travaglio, dato che non prendo il caffè, per cui il primo caffè che prendo nella mia vita non lo vorrei prendere con Travaglio. Un tè alla menta, cosa si beve a Malindi? Un tè alla menta, va bene? Si beve latte e miele, perché ho mal di gola, stamattina ho preso latte e miele. Un latte e miele con Travaglio, insomma, per siglare la pace, ma che c'ha Travaglio con lei? E che c'ha lei con Travaglio? Ma io niente, io sono sempre stato attaccato da Travaglio da anni. Per cui niente, io subisco fino a un certo punto, quando non puoi più subire, passi per via Legari, come sto facendo. Questa non la sapevo. C'è una denuncia addirittura, una querela. C'è una querela in arrivo. È in arrivo a Marco Travaglio. Sarà contento, non sarà contento di scoprirlo in diretta Radio 24. Ma perché cosa? No, ma lui lo sa, perché lo sa. Non si può sempre accusare, fare. Quindi una querela in arrivo per Marco Travaglio, vediamo un po', poi magari con un latte e miele la ricomponete. Intanto grazie. Quando è l'ultima volta, la prossima volta che Berlusconi viene in Kenya? È già fissata o non si sa niente? Non ancora, non è in calendario. E anche a Natale magari qualche giorno. deve lavorare adesso. Va bene. Buon lavoro, grazie. Buongiorno, a Flavio Briatore, grazie. Essere stato con noi. Ci fermiamo qualche minuto e tra 6 minuti parleremo di scuola. Le scuole, tante scuole sono occupate, tante lo sono state. Ci sono dei presidi anche che dicono basta, è un metodo di fare che non va bene, l'occupazione. Da decenni l'occupazione delle scuole da parte degli studenti è uno degli strumenti, una delle forme di protesta più note, più diffuse da sempre. Ci sono molte scuole in questo momento che sono occupate in Italia, altre sono state occupate qualche giorno, in alcuni casi sono state sgomberate e se sono finite le occupazioni, in alcuni casi gli operatori del settore, anche presidi, si sono molto arrabbiati nei confronti degli studenti, dei genitori. Ne vogliamo parlare di quello che sta succedendo nel mondo della scuola con intanto il sottosegretario all'istruzione, che saluto, Marco Rossi Doria. Buongiorno e ben ritrovato, sottosegretario. Buongiorno ai radioascoltatori. E saluto anche Giovanni Gaglio, che è un preside all'Istituto Magistrale Gaetano Agnesi di Milano. Buongiorno preside e benvenuto. Buongiorno a lei, agli ascoltatori e al sottosegretario. Scuola che è stata occupata nei giorni scorsi per qualche giorno. Preside, mi ha molto colpito perché lei è arrivato addirittura a minacciare, credo, una denuncia, cioè a dire adesso li denuncio questi studenti. È così? Sì, ho dichiarato alla stampa che li avrei denunciati perché c'erano studenti della scuola, soprattutto perché c'erano anche degli esterni. Ma il fatto è che i ragazzi non hanno svolto, come da 45 anni, dal 68, non hanno svolto un'assemblea autorizzata, bensì sono entrate nella scuola con il mio permesso, perché ho autorizzato che si svolga un collettivo studentesco ogni giovedì, come da loro richiesto, autogestito dai ragazzi, sì, maggiorenni soprattutto, e poi non sono più usciti. Quindi è un'azione che non ha, diciamo così, quella via della legalità o della democrazia che la scuola è il compito hanno fatto un'occupazione approfittando di un collettivo che le aveva autorizzato per poi rimanere nell'istituto. È mancata praticamente la trafila democratica, diciamo così, e soprattutto c'erano esterni che hanno premuto, sono entrate nella scuola con la violenza. Ma chi sono secondo lei i ragazzi che manifestano, anche arrivando a occupare, gli studenti, non parliamo degli esterni, cioè quelli che fanno casino per professione. Secondo lei hanno delle giuste rimostranze, delle proteste che possono portare avanti anche con questa forma estrema? Questa forma estrema oggi i ragazzi hanno sempre avuto un'ansia di giustizia sociale, hanno sempre lottato, i ragazzi nella scuola intendo, soprattutto in questi ultimi 2 anni, di fronte a sacrifici che vengono chiesti a vario titolo, di fronte a una prospettiva di futuro che dobbiamo dire non è assolutamente rosea. Sì. Di fronte anche a quello che vivono sulla propria pelle, non dimentichiamo che i ragazzi hanno in casa anche dei disoccupati, dei genitori che faticano a trovare lavoro dopo essere stati disoccupati, e si sta ripresentando, a mio giudizio, questo è il mio giudizio, si sta ripresentando una situazione che Don Milani condannava, cioè la scuola di classe. Ricordo nel settembre scorso un'inchiesta di Famiglia Cristiana che diceva che uno studente costa alla famiglia 2.000 euro all'anno, uno studente delle superiori. Sì. Certo, non è una cosa da nulla. Non è una cosa da nulla, questo no. Però lei ce l'ha anche con alcuni genitori. O meglio, ho sentito alcune sue dichiarazioni nella quale è stato critico nei confronti di alcuni genitori, a dire invece di venire qui a portarsi a casa i ragazzi, venivano in qualche modo a supportarli, magari a portargli il sacco a pelo, a dire state qui. E il ruolo dei genitori secondo lei qual è in queste situazioni? Ma il ruolo dei genitori è collaborare con la scuola e collaborare con noi docenti, con i propri figli, alla crescita e all'educazione dei propri figli. Quella è stata una battuta, c'è stato un genitore che ha portato uno zainetto, quindi non potrei generalizzare. Io ho avvertito i genitori come era il mio dovere, da lì è stata tratta questa notizia che non è completamente precisa. Ho avvertito i genitori perché è mio dovere dire: attenzione, i ragazzi sono qui in occupazione, voi assumete qualsiasi provvedimento utile affinché cessi una situazione di illegalità, e sappiate, perché ci sono delle sentenze, è mio dovere farlo, e sappiate che nel caso di minori, ove ci fossero dei danni, pagano il genitore, nel caso di maggiorenni invece sono i maggiorenni stessi. Ci sono stati dei danni alla scuola? L'occupazione? No, sostanzialmente no. No, i ragazzi sono stati molto corretti in questo senso. E allora, Presidente, rimanga con noi. Ho voluto fare questo racconto da offrire anche al sottosegretario Rossi Doria. Intanto, sottosegretario, ci sono varie scuole che sono occupate. Cos'è, un rito che si ripete da 40 anni a questa parte, oppure i ragazzi hanno anche delle loro giustificazioni, secondo lei, a manifestare così? Ma la faccenda del rito può darsi pure che ci sia. Il problema è che noi, mondo adulto, decisori pubblici, dobbiamo vedere le differenze nelle stagioni della vicenda italiana, e qui francamente i ragazzi oggi hanno davanti una prospettiva molto molto più difficile dei loro compagni di 20, 30 o 40 anni fa, e quindi diciamo c'è un senso di sbandamento, un senso di attesa per il futuro, che tutti i dati che ci vengono dal contesto internazionale, da quello italiano, e loro li leggono, li guardano in rete, ne discutono, ci conferma, quindi c'è un'ansia sullo sfondo e noi dobbiamo cogliere quest'ansia. Però mi scusi sottosegretario, c'è un'ansia e quindi occupo, cioè io giovane studente ho un'ansia per il futuro, ho poi il genitore. Sull'occupazione ci sono molte occupazioni, intanto sono contento che non ci sono stati danni in questa scuola, così come nella maggioranza, rispetto ad anni in cui venivano vandalizzate le scuole, qui stiamo di fronte ad una prospettiva un attimo diversa. Ieri mi sono incontrato con dei ragazzi che sono venuti a parlarmi, erano in visita in una scuola primaria che avevano occupato in una zona fuori Roma e avevano addirittura ritinteggiato i muri, e quindi io colgo tutti gli aspetti, dopodiché quando c'è una minoranza, quando ci sono gli esterni, quando non è stato portato a termine una procedura democratica come ha detto il dirigente scolastico, e allora bisogna che il mondo adulto si attrezzi per convincere di adottare maniere più democratiche. Ecco, io penso questo sostanzialmente. Penso anche che bisogna che la scuola sia posta al centro di nuovo dell'attenzione nazionale, perché è vero che abbiamo grandi problemi, è vero che abbiamo l'edilizia scolastica in difficoltà, è vero che ci vogliono ingenti investimenti, chiamiamoli investimenti perché così si devono chiamare, nella ricerca, nella scuola e nell'università, l'ha ripetuto ieri in televisione per l'ennesima volta il ministro, siamo tutti d'accordo, siamo anche un paese fortemente indebitato, in difficoltà, ci vuole un piano nazionale, ci vuole una grande intesa della comunità nazionale per ricominciare seriamente a investire nella scuola. Tutti i paesi che sono stati oggetto di questa grande crisi, che hanno investito nella scuola, ne stanno uscendo meglio. Ma lei sottosegretario ha mai occupato quando era giovane? In realtà io ho occupato, penso fosse l'anno di grazia 1970, per due giorni fummo sgomberati, credo, dalla polizia. Altri tempi, altre motivazioni forse. No, insomma, forse le motivazioni, diciamo, c'era la piena occupazione in Italia, voglio dire, i giovani avevano una prospettiva più rosea allora che oggi dal punto di vista concreto. E quindi io non sono di quelli che dicono le mie occupazioni erano belle e giustificate, queste no, ecco, voglio dirlo. Questo chiaramente. Molte scuole occupate in Italia. 800 24 00 24, vale sentire Lucio da Roma. Buongiorno Lucio. Buongiorno a voi, grazie per la possibilità di intervenire. Dice. Allora, io la prima cosa che volevo dire è che da una parte non mi è piaciuta la risposta di quel preside che ha minacciato una denuncia. Le persone che non seguono le regole vanno denunciate, non vanno solamente minacciate. Questo lo dico per un semplice motivo, perché autogestione e occupazione, io francamente partecipai a qualcosa del genere ormai lontano 1986, sono solamente scuse per non fare assolutamente nulla da una parte. E poi lei parla per esperienza diretta, cioè sì, l'ha fatto per non fare scuola, insomma, per non studiare. Sì, sì, come tutti del resto, come tutti. Perché adesso tutti, ci sarà anche qualche studente che si batte per degli ideali, giusti o sbagliati che siano, no? Non crede, Lucio? Ma guardi, se le posso dire la verità, dire che degli studenti di 16, 17, 15 anni si battano per un ideale quando vengono fuori comunque sia da delle famiglie iperproduttive mi sembra un pochino forte, diciamo. Pochino forte. Vabbè, dica allora perché il preside ha sbagliato, doveva denunciarli subito? Doveva denunciarli immediatamente, semplicemente perché gli alunni sono qualcosa di estremamente strumentalizzabile. Quando voi parlate di collettivo, almeno quando io andavo a scuola, era la sigla dietro la quale si muovevano i movimenti della sinistra, sì, che facevano i collettivi, che facevano proselitismo in questa maniera. Questa a me sembra una cosa inaccettabile, perché la scuola deve insegnare che si deve fare quello che si deve fare, quando lo si deve fare. Allora, le risponde... Se no poi nella vita ti trovi male. Lucio, le risponde il preside. Gaglio, lei perché non li ha denunciati subito? Ci ha pensato? Ma noi abbiamo dialogato con gli studenti tutto il pomeriggio fino alle 9 di sera. Ho chiamato anche la Digos, poi se devo denunciare i miei studenti, visto che io sono nella scuola per educare e formare, collaborando con i docenti e con le famiglie, non venga a dirla alla radio sicuramente, ecco. Prima ne parlerei con le famiglie e comunque non lo direi alla radio. Sì. Comunque solo in parte ha ragione il Lucio che è appena intervenuto e che ringrazio del suo intervento per quanto mi riguarda. Cioè ci sono dei ragazzini di prima e di seconda che vengono coinvolti in massa, diciamo così, senza criterio, e che hanno forse sicuramente possono avere, diciamo così, la curiosità, la voglia, sì, di provare, eccetera. Sì, anche la voglia di sfidare, la voglia di fare una effettivamente magari non sono a 13 anni, 14 anni, 15 anni, non hanno degli ideali formati, però vogliono in qualche modo. Lì è un problema che riguarda sia i docenti che la famiglia, quello di fare formare degli ideali agli studenti. Però perché c'è tra questo. I doveri nostri c'è quello di educare. Questo educare sì, mi faccia dare presi un attimo, siccome mi voglio dare la linea a Gianna da Prato. Mi scrive Gianna, buongiorno. Buongiorno, non so se sente male perché io ho l'amplificatore in una classe. Ecco, mi ha detto, mi dico dalla redazione, lei ci ha chiamato, che state facendo ascoltare la trasmissione in classe. Siamo in diretta, quindi ci stanno ascoltando, immagino, anche dei ragazzi, delle ragazze. Sì, no? C'è una classe di ragazzi, ho messo attaccato al cellulare l'amplificatore, sentiamo benissimo. Ci dica quali sono gli umori, se vuole portare, se c'è qualcuno anche, chiaro che però sono minorenni, non è che potrei farli parlare con l'autorizzazione se me la dà lei come insegnante invece dei genitori. Che dicono di quello che stiamo dicendo? Quali sono gli umori? Allora, i ragazzi anche in questa scuola hanno fatto un'assemblea perché era in procinto l'assemblea, l'occupazione, poi non hanno occupato, almeno per ora. Il fatto è che appunto ascoltavano il sottosegretario, mi sembra. Sì, Rossi Doria, sì. E che parlava di investire nella scuola, ma chiedevano bene, ma questo governo cosa ha fatto per investire nella scuola? Allora facciamo così, in attesa lei mi porti una rappresentante o un rappresentante di classe, intanto Rossi Doria risponde e vi fa ascoltare. Che sta facendo il governo Monti, sottosegretario? Abbiamo speso 1 miliardo per la lotta alla condizione assurda, diciamo così, dal punto di vista dei nuovi media, dal punto di vista dell'edilizia scolastica, dal punto di vista della dispersione scolastica nel mezzogiorno, e la questione dei tagli che c'è stata per 8 miliardi e 400 milioni negli ultimi 3 anni si è arrestata, certamente l'onda lunga di questi tagli si sentono adesso, perché si taglia a un certo punto e si sente adesso, quindi i ragazzi sono in allarme, però c'è una inversione faticosa, voglio sottolineare faticosa, di tendenza anche per i conti pubblici, come ho detto. Io penso che lo dico anche ai ragazzi, si deve aprire una stagione in cui il mondo adulto, anche il decisore pubblico, anche un sottosegretario, deve assumersi la responsabilità sì. di un dibattito, perché, come ho detto prima, si inverta la tendenza. Sentiamo, sottosegretario, vediamo se Gianna, io purtroppo tra un minuto e mezzo devo chiudere, c'è qualche allora studente, uno studente che vuole dire qualcosa, una considerazione, il disagio degli studenti espresso anche con le occupazioni? Gianna. Sì, eccoci, ora passo un rappresentante. Sì, uno e che sia breve e incisivo, grazie. Sì. Eccoci. Sì, pronto. Come ti chiami? Massimiliano Sartori. E che quanti anni hai? Ne ho 16. Ecco, cosa non va nella scuola che vi porta anche a pensare di occupare in alcuni casi? Ci porta ad occupare determinate cose, tipo condizione della scuola, la modalità di istruzione, i tagli verso gli insegnanti e verso l'istruzione. Quindi i tagli, la questione dei tagli. Sì. C'è anche una voglia, diciamolo chiaramente, Massimiliano, di poter così saltare qualche ora di lezione, oppure no? Oppure siete tutti impegnati per il bene della scuola pubblica? Noi ci impegneremo verso la scuola, anche perché noi siamo un istituto alberghiero e non credo sia molto giusto tagliarci i fondi per le nostre esercitazioni verso il rapporto del lavoro. Va bene, va bene. Grazie, mi devo fermare qui con il sottosegretario Rossi Doria, con tutti i miei ospiti, il presidente Giovanni Gaglio e insomma questi studenti che hanno fatto questa irruzione, ma positiva, nella nostra trasmissione. Ci sentiamo domani alle 6:30.